destino, quel soldato, per quanto abbia cercato, niun lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito, cospetto, che dubitar scommetto, che dal conte Almaviva è stato chi spedito quel signore ad esplorar della rosina il cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io... Chi batte? Ehi, chi è di là? Battono, non sentite? In casa io son, non v'è timore, aprite. Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere? Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio. Ebbene? Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece... Sta mal? Corro a vederlo! Piano, piano! Non è mal così grave. Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo! Ma, signore... Che c'è? Voleva dirvi... Parlate forte! Ma... Forte vi dico! Ebben, come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete! Vada il conte Almaviva! Piano, piano, dite, dite, v'ascolto! Il conte... Pian, per carità! Stamane, nella stessa locanda, era meco d'alloggio, ed in mie mani, per caso, capitò questo biglietto della vostra pupilla a lui diretto. Che vedo! E sua scrittura? Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezione alla ragazza, voleva farmene un merito con voi. Perché con quel biglietto si potrebbe... Che cosa? Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io creder verbi grazia le farei. Che melodia del conte un altro amante, prova significante che il conte di Rosina si fa giuoco. E perciò... Piano un poco! Una calunnia! Oh, bravo! Degno e vedo scolar di Don Basilio! Io saprò come merita ricompensar sì bel suggerimento! Vuoi chiamar la ragazza? E poiché tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi. Non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un tal ripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno a lei ora paleserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, al cor sento balzarmi in seno. Venite, signorina. Don Alonso, che qui vedete, or vi darà lezione. Ah! Cos'è stato? Un granchio al piede. Oh, nulla. Sedete a me vicin, bella fanciulla. Se non vi spiace, un poco di lezione di Don Basilio invece vi darò. Oh, con mio gran piacere la prenderò. Che volete cantare? Io canto, se le grada, il rondò dell'inutile precauzione. Da breve.